James Bond. Shh, che è il momento. Aspetta, abbassa. Shh, che zitto, forse ce la fa. Shh, zitto. Oh, ma sai che se ci beccano? Nando, se mi senti, vieni fuori. Tiratelo fuori perché vedo gli allarmini di... Oh, non riesce più a uscire. Graziano? Non esce più. Mi sa che tocca a te andare a liberarlo. Ci siamo. Come ci siamo? Forse esce. Ecco, l'abbiamo monitorizzato qua. C'è il nostro amico Nando che in questo... Sto facendo un riepilogo per chi ci sta ascoltando. Si è introdotto negli studi di One One Network per rubare una cosa a un disc jockey famosissimo di One One che si chiama Faber. L'ho trovato. Eccolo! Ho fatto! Ce l'ho visto! Avevo sbagliato voce. Ho fregato pure la voce quell'altro. Si è fregato tutto, mi sa. A forza fa il cretino, ma sono cretini veramente. Allora, ci sei. Vabbè, ce l'hai fatta a prendere la scatoletta musicale? Ce l'ho fatta, va. Abbiamo un'intervista? Intervista? È un'intervista. Scatoletta. C'erano due scatolette, ho preso una, non lo so. Ne preso una, dai, però fammi sentire che cosa. L'intervista dice, c'è scritto Interview. Dai, sentiamo l'intervista, dai, che abbiamo rubato su Arona. Manna, spingi il bottone. Sono felice di rivedervi, voi non sapete quanto. Se tu avessi. Chi vorresti per 24 ore? Per 24 ore mi piacerebbe avere, beh, per esempio, un musicista grandissimo come Peter Gabriel. Perché? Per capire un attimo come, cosa ne pensa, come fa la musica, condividere le mie idee con le sue. E per te? Chi vorrei avere? Vorrei avere... Sono un po' indecisa, forse il Papa. È la nostra unica speranza di salvezza. Potrebbe sicuramente rivelarsi la più importante. Potrebbe anche aiutarmi molto. Il Papa o il Dalai Lama forse sarebbe veramente illuminante. Avanti un altro. Chi vorrei per 24 ore? Sì. Avere accanto? Sì. Mamma mia. Mio nonno, non l'ho mai conosciuto. Il papà del mio papà. E di tutti i nonni è quello che non ho conosciuto. Mi dispiace perché me ne parlo veramente bene. Figliolo! Grazie, ragazzi. Sono simpaticamente intervenuti Ron, Paola Turci e Peggy High Energy. Il seguito vi aspetta domani. Aspetta. Bella a tutti quelli che stanno dentro a Dance Village con le orecchie, con la testa e con il corpo, il fatto che lo muovano, da Frankie e Energy MC, bella Faber Cucchetti, ciao. Abbiamo proprio rubato a Faber questa cosa. Gliel'ho fregata e noi arido! No, gliela ridiamo! C'è rotto di colombe, ad a pagare! Devi riportarla indietro, te lo dire. Ad a pagare! Riscatto? Che? Guadagniamo? Soldi! Bello intervistire. Cacci i sordi. Ma perché non fai le stesse cose qua? È vero, perché non fai le stesse cose per noi? Ti sei fatto assumere qua come tecnico e non... Cioè, potresti anche spedircele, per esempio. Ma poi Palatucci, un'intervista, ma sei un bambino, sei Aronne, ma dove? Vabbè. Ma Frankie Energy, ma da che le rappe, ma da che? Ma le rocche, mettegli! A non da rotta, che ce l'hai? Non ce l'abbiamo, Ronde. Non ce l'hai. È un disastro. Quando è che vai via? Come? Che lo chiedo? Sono arrivato! Facciamelo! Ma così almeno ce lo togliamo. Ah, fai la puntata con noi allora? Di che? Tutta la puntata. No, devo andare a casa. Devo andare aiuto a Faber a fare quella la puntata di domani. Ciao. So che non avete capito niente, ma questa è una trasmissione così. No, cioè, è una trasmissione così. Gli ascoltatori a casa sono scusati se girano il canale, grazie. Che mi col Gaucho e io sono Gaucho, dall'altra parte del vetro c'è Gra Melzin, una giornata tranquillissima. parla per te. No, vabbè, dai, tranquilla, non ci sono proprio grossi problemi per quanto ci riguarda nella nostra città. Tanto un paio di manifestazioni, guarda laggiù in fondo si stanno spaccando. No, almeno da quella che... che manifestazioni ci sono state? Non lo so, ci sono sempre. È una città questa, ormai è una metropoli. In tutte le città ci sono le manifestazioni. Fisse, 24 ore al giorno. È pieno di manifestazioni. Sempre, basta pensare. Cioè, se soltanto riuniamo tre pensionati, vero, mi ricordo fanno manifestazione, giustamente. Andavo a scuola, ero sempre in manifestazione. Manifestazione, sì. Sì. Poi dopo noi non le viviamo queste cose perché siamo all'interno di queste quattro mura, abbiamo soltanto una finestra su una strada che è sempre perennemente disastrata. Cioè, se, il lavoro in corso da 8 anni. Cioè, siamo qua da 8 anni che ci sono i lavori in corso. Adesso ci sono anche le piscine perché hanno fatto i buchi, ha piovuto. Perché poi uno dice, beh, faranno un lavoro grosso. No, enorme. Sono tanti piccoli. Tanti piccoli lavori. Ah, comunica. Chiudono, riapro, sindaco, sindaco, sindaco, sindaco, sindaco. Se mi dica. Adesso faccio la spia. Sindaco. Se mi dica. Lo sa che hanno cimentato... le aiuole, poi si sono accorti che nelle aiuole i fiori non possono crescere col cemento, hanno tirato su tutto il cemento e hanno messo la terra dove prima l'avevano cimentate. Quanto è costato mettere giù il cemento e tirare su poi il cemento? Ragazzi, costa mettere giù il cemento. Una ruspa, uno dice, ma il cemento dove vuoi che sia? Costa. Caspita, ci fai una casa con quel cemento. Sindaco, venga a dare un'occhiata, via Locatelli, venga a dare cosa, vedere cosa succede qua, perché è un macello. Da Vittor Pisani a Claudio Locatelli. Aiuto, aiutateci. Vabbè, poi parliamo, non parliamo delle altre strade e situazioni di Milano, ma se volete potete segnalarcele. Vabbè, polemica per polemica, vorrei sapere a che cavolo serve il giardinetto qua sotto. Cioè, i casi sono due, che hanno fatto in mezzo alla strada, hanno blocchiuso una strada, che era l'unica strada, che dava sfogo. Congiunzione, sì, esatto. Che via è questa qua? Via Tunisia. Via le Tunisie, che dava sfogo a Via le Tunisie, cioè in quattro conoscevano quella strada lì ed erano gli unici che arrivavano puntuali a casa la sera. Sì. Adesso neanche lo giustamente. Ha fatto un giardino. Vi mettete in coda con gli altri. Hanno fatto un giardino. I casi sono due. O il giardino sarebbe per far pipì ai cani del palazzo qua. Esatto. O per farci fare le canne a noi, non lo so. No. Non ascoltate quello che dice. No, ho la strana sensazione che in una situazione di controllo della città abbiano installato SimCity. Esatto, perché sì, col verde dà più punti. Col verde dà più punti. Comunque magari gli ascoltatori pensano, ah, c'hanno il giardino adesso. No! No, c'è no, l'idea no. Del giardino. L'idea, c'è soltanto la c'è base. C'è solo l'idea del giardino. La base. Il giardino vedremo, 7-8 anni vedremo. Chissà mai. Poi bisognerà innaffiarlo, mettono gli innaffiatori, quelli automatici che alle 3 del mattino innaffiano tutto, la strada, i vetri, i palazzi, tranne il giardino. Cioè, sono sempre regolati da tutte le altre parti. Va bene. No, perché spieghiamo, perché gli ascoltatori lo sanno, qualcheduno l'ha provato a ritornare a casa alle 4 o alle 5 del mattino quando partono tu? Questi innaffiatori. Tu? Si trova in mezzo al vialetto. Vestito agli innaffiatori. Si lava. Oppure delle fontane che spruzzano proprio in mezzo alla strada, non si sa. Una volta mi sono avvicinato, ho lavato la fiancata della macchina. Tranquillo, beato, tanto era pagato. Avevi portato lo shampoo dal comune, tranquillo, lo sapevo. Vabbè, detto questo, lanciami la pubblicità. Lanciamo la pubblicità con New Factory, una discoteca, devo dire, acquatica. E giustamente, perché lì Fridge Compilation è una compilation bellissima da acquistare con tanta bella musica. E poi Zero Più è il nostro provider, vi do l'indirizzo, è rockfm@zeropiu.it e il nostro indirizzo email per mandarci le vostre email. Le aspettiamo veramente desiderosi di sapere cosa ci chiedete. Non ci chiedete le frequenze o di allargare l'emissione, perché questo per il momento è impossibile. Lo diciamo una volta per tutti. Sì. Non è possibile. Non è possibile, basta. Dopo la pubblicità, Giusy Starant, la regina del notiziario. Rock Planet Production, in collaborazione con Psycho, vi invita alla serata più metal dell'anno. Sabato 15 novembre, Pantera Tribute Night al New Factory Acquatica, con presentazione di un video in cui la band saluta i fans italiani presenti per l'occasione. Esibizione live di Extrema, Node, Toxic Youth, In Dust, che eseguiranno cover dei Pantera. Inoltre ai più fortunati in omaggio 5 discografie complete, magliette e cappellini dell'ultimo CD live. Sabato 15 novembre dalle 22 al New Factory Acquatica, via Raghi 61, Milano.